che io viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Dovevate aspettarvelo, ieri abbiamo parlato di Dio e Patria e oggi naturalmente non possiamo che parlare di famiglia. Oddio, che parolona impegnativa parlare di famiglia. Cosa è oggi la famiglia? La famiglia è quel nucleo fondamentale fatto da un uomo e una donna che poi hanno dei figli, vivono assieme e tirano avanti nella miglior maniera possibile, inventandosi ogni giorno stratagemmi di sopravvivenza. Famiglia è quella istituzione sacra che tutti inseguono, che tutti proclamano come unica, che tutti pongono al centro delle loro attenzioni, delle loro genuflessioni, ma che in realtà nasconde un verminaio così profondamente e terribilmente profondo che non è bene mai scoperchiare la pietra che la ricopre. Oppure famiglia, ma famiglia è una condizione dell'esistere e socializzare tra persone, può essere fatta di uomini, donne, bambini, animali, di quello che volete, può essere fatta di elementi collaterali, può essere fatta di connessioni, può essere un social network la nostra famiglia, ma questo, tutto questo, il contrario di questo. Comunque ancora conviene parlare di famiglia è qualcosa che richiama l'attenzione, tanto che un noto e... titolato regista Giovanni Veronesi, di cui cominceremo a vedere l'ultimo film nelle sale proprio a giorni, si è espresso a favore della famiglia tradizionale, della famiglia carnale, della famiglia costituita tradizionalmente. Saranno tutti contenti, sarà benedetto, tutte le parrocchie d'Italia faranno le novene in nome di Veronesi, perché ha detto qualcosa che finalmente conferma il fatto che la famiglia è un nucleo indissolubile fatto di un uomo, una donna e alcuni bambini. Io esprimo subito il mio parere all'inizio, così dopo avrò modo di saggiare, confrontare e pensare quello che altri mi diranno su questo tema. La famiglia è un grande impegno, la famiglia è una dichiarazione teorica di intenti, è una sorta di sfida verso se stessi e verso il mondo. Uno decide: ho la mia famiglia, me la tengo, mi dedico a lei, cerco di fare in modo che crescano felici tutte le persone che ho messo assieme con grande fatica, giorno per giorno. La famiglia è una scommessa quotidiana, la famiglia è qualcosa che ogni giorno ci viene la tentazione di gettare alle ortiche, perché è chiaro, la famiglia è l'antitesi della libertà, la famiglia molte volte è l'antitesi della nostra felicità individuale, la famiglia è l'antitesi della nostra leggerezza, la famiglia è l'antitesi del nostro andare rapaci e guardinghi guardando il mondo come qualcosa da poter conquistare. Però considerate che in fondo ha un suo valore avere una famiglia. Avere questo impegno, portare avanti con serietà e con giudizio questo impegno, significa poi riuscirsi a godere tranquillamente tutte le piccole aperture che l'onesta e retta mantenimento di questo impegno ci permette. La famiglia ci permette una grande fantasia, la famiglia ci permette un grande assaporare i momenti in cui riusciamo ad essere creativi, quando vediamo che la nostra famiglia sta bene. Questa è la famiglia. Le famiglie allargate, ricostruite, rimmaginate, ripensate, sono nient'altro che dei cloni, che delle ripetizioni del modello tradizionale della famiglia. Uno può provarci, ma si ritrova sempre comunque a pestare nella stessa fanghiglia. Quindi tanto vale, se uno vuole, tentarci una volta, impegnarsi in questa cosa e poi magari vedere che la vita ogni tanto ci offre qualcosa che vale la pena di essere vissuto, nonostante la nostra famiglia. Genitori e figli, istruzioni per Lucio. Perché i genitori non è che sono una categoria che nasce giusto per rompere i coglioni ai poveri figli. Sei cretino! Adesso tutti insieme siete diventato razzista! Ma almeno lo sai cosa vuol dire essere razzista! Sì, è quando ti fanno schifo quelli che vengono dagli altri paesi. Ecco, lo so. Esisteranno un paio di genitori che non litigano mai? E se sì, dove li posso acquistare? Che noia questa ragazzina, già solo il trailer mi fa venire dei raggrizzimenti gonadici profondissimi. Ragazzi, esisteranno i genitori che non litigano mai? Certo che esistono, genitori mummificati, sclerotizzati, plastificati, genitori ipocriti, genitori che hanno la loro vita affettiva, emotiva, sentimentale, impegnata in altri luoghi, quelli non litigano mai, sono sempre cortesi tra loro, si cedono sempre il passo. Ringrazi ogni fanciullo, i genitori stirano i piatti in testa. Finché i genitori litigano e urlano, vuol dire tra loro ancora esiste un impegno di tenere insieme la famiglia. I genitori che non litigano più non sono più genitori, non è più famiglia. Giuseppe Sansonna, nostro esperto in cinema, profondo conoscitore della realtà italiana vista e mediata attraverso il cinema. Sono te veronesi, ha fatto una bella ruffianata con il pensiero corrente esprimendosi con questo film, o in realtà c'è un desiderio di svolta rispetto a tutti i modelli stereotipi di famiglia italiana che analizzeremo questa mattina? Ma io aspetterei a vedere il film, comunque sono incuriosito, anche se Veronesi fa un tipo di cinema che rappresenta una versione più edulcorata della commedia brutale cinepanettonesca, però è comunque un cinema abbastanza intriso di cliché che non è che scavi più di tanto nel profondo, almeno anche da quello che ho visto in passato. Comunque mi interessava quel discorso che facevi sulla paternità e sulla maternità, sul inventarsi costantemente genitori e sfuggire all'equivoco di imporsi come figure istituzionali, ma di volta in volta gestire la vita e il rapporto con i figli in maniera libera, credo, in maniera anche adeguata ai tempi che si vivono, insomma. Ecco, Giuseppe, io e te in questi ultimi mesi ci siamo spesso abbandonati a una sorta di gioco medianico. Ci siamo lasciati andare evocando i fantasmi e i riflessi della società italiana, rimasti imprigionati in quelle griglie a volte molto sottovalutate, che è il cinema di genere, il cinema considerato a volte anche non eccelso, che però è quello che sinceramente, concretamente, o a volte anche in maniera impropria, senza un preciso disegno, coglie realmente dei segni effettivi di mutazione o di sclerotizzazione della società. La famiglia nel cinema italiano è stata spesso raccontata, diciamo che essendo la nostra una società basata sui principi immarcescibili di Dio, Padre, Famiglia, che se ne voglia sempre così, sia nel più laico del pensiero, sia nel più confessionale delle visioni della vita, è chiaro che molti grandi o piccoli o medi o mediocri o immaginifici ma deprezzati dalla critica ufficiale e registi hanno sempre visto la famiglia al centro delle loro attenzioni. Possiamo stabilire dei filoni e cominciamo a osservare la famiglia italiana attraverso il cinema, mentre il nostro pubblico può chiamare all'800240024 dicendo in quale modello di famiglia rappresentata si vede di più realisticamente rappresentato. Uno dei film più interessanti che ascolteremo a breve è stato Anche libero va bene, di Kim Rossi Stewart, con la sua regia e con lui protagonista. È un lavoro molto interessante perché... Quindi partiamo dall'attualità, dai film più vicini al momento che stiamo vivendo. Sì, io quello oggi qui da te, nel senso io ti seguo. No, io l'ho trovato un film molto sensibile, molto delicato, anche affrontando le ruvidezze della vita familiare, sfuggendo a tutti i cliché, e ovviamente è passato meno in luce rispetto appunto ai blockbuster, però è un film molto sottile in cui c'è questo genitore nevrotico che proietta sul figlio le proprie ansie. Papà, mi dici una cosa? Che cosa? Perché l'avete messo lì dentro? Non lo riesco a capire. Ci sono cose, Michi, che sembrano sbagliate quando uno non ci pensa, Michi. Dimentica tutto. Dormi, dai. Dormi. È agghiacciante questo dialogo fra padre e figlio, anche perché dobbiamo introdurre il trailer. Io non ho paura. Questo è un figlio che si rende conto che in famiglia è accaduto qualcosa di strano. Cosa? È accaduto il rapimento, che il suo padre è coinvolto in un rapimento, però suo padre non è il rapitore efferato, feroce, che invece è incarnato da Batantuono, ma è Dino a Brescia. È un... conserva una natura umana delicata, fa questo perché tiene famiglia, in nome della famiglia lo fa il rapimento, rapisce un bambino coetaneo del figlio in nome della famiglia. Diciamo che è una situazione non estesa in maniera così capillare, ma molto sentita. Quando in famiglia si deve entrare in quell'area limacciosa che non si capisce bene, e i figli non lo capiscono, laddove inizi in realtà la zona di pericolo, la zona di collusione, quando, o dove invece magari è il papà che sta in certi affari per il bene della famiglia, via dicendo. Sono realtà che anche fisiologicamente in alcune aree del nostro paese sono molto correnti. Il figlio si rende conto che alcuni amici del papà, che alcuni affari del papà, che alcune storie in cui sono coinvolti i familiari non sono proprio quelle che a scuola gli dicono che sono le buone azioni. Sì, è un po' una visione estrema della natura compromissoria della società, magari in cui il padre deve fare delle cose per o sente di dover fare delle cose anche oscillando nella sua morale per il bene del figlio, e il figlio smaschera che il re è nudo, cioè osserva che il padre è costretto. È un momento fondamentale della crescita di ogni figlio di famiglia. Accorgersi che poi i genitori non sono questi stinchi di santi che noi pensiamo, che la mamma non è questo modello di integerrima purezza, di padrona e esemplare madre. Se uno la vede aggroppata con l'idraulico di sfuggita, si rende conto che anche la mamma non è proprio quello che immagina. La vede uscire particolarmente curata, comincia a sgamare qualcosa. E anche il padre, che uno sempre vede come un modello, quando comincia a vederlo un po' preoccupato, quando comincia a vedere certi amici di papà non proprio carini, quando il papà prende la valigia e se ne va via di casa per qualche mese, come probabilmente sta accadendo in molte famiglie altolocate italiane in questa mattinata, ci si rende conto che in effetti qualcosa non funziona. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per una trasmissione particolare. Allora, io chiamavo per questo. A me fondamentalmente i film italiani sulla famiglia non piacciono, perché mettono sempre ansia, fanno passare il matrimonio come una tortura, un qualcosa dove si litiga quasi sempre. Beh, oddio, è vero che tante qualcosina volte... di vero c'è, diciamoci la verità. Sì, è vero, però porca miseria, cioè io ho 31 anni, sono sposato e sono veramente, per adesso sono veramente da quanto contento, tempo è sposato? Da 3 anni, convivo da 6, 7 anni. Sì, quindi ha un'esperienza abbastanza consolidata. Sì, no, ma mi piace, è ovviamente la persona giusta. Ma la questione è questa, cioè io vedo i miei amici, ma caspita, sono tutti, hanno una paura di sposarsi, che è incredibile. Cioè io non ho mai visto un film italiano, a me non piacciono fondamentalmente. Loro, cacchio, sono dei cinefili dell'Italia, che miseria. Ti mette ansia. Io quando vedo pubblicità di questo film qui di cui state parlando, di non Rodin, mi ricordo sì. neanche il titolo. Sì. Cioè a me figli, genitori ansia. E figli agitare prima dell'uso, è questo. Sì, dico, questi due che litigano sempre, ma che stress, ma perché... Ma perché lei non litiga mai con sua moglie? Lei non litiga mai? Ma per carità, ma sì, ma poco. Cioè io mi preoccuperei, onestamente. Ma io litigo assolutamente sì, ma nel senso, cioè, ma non a questi livelli, insomma, si litiga per raggiungere uno scopo, cioè quello di comunque di stare insieme. E questa è la cosa importante, è vero, ognuno ha due punti di vista, si litiga, poi ma si converge. Cioè non, si converge non necessariamente, perché al fine il convergere è una scelta strategica. Uno dice a se stesso, se non convergo cosa faccio? Divergo, ma una volta che io divergo devo necessariamente riconvergere con qualcun altro e riconvergerò in una situazione simile, da qui a poco tempo mi ritroverò nello stesso clima. Quindi tanto vale investire con pazienza, con impegno, con costanza, anche facendo qualche passo indietro, nell'impegno già portato avanti, che uno non butta via il tempo usato, tanto si sa che comunque gli esperimenti di convivenza, di vita assieme, convergono sempre poi negli stessi momenti di crisi. Quindi lei sta dicendo cose molto sagge. Lascerei spazio comunque alle persone che hanno comunque terrore di questo impegno, perché è un impegno che naturalmente costa senz'altro. Lei adesso lo vede con grande leggerezza. Però comunque vedo che ultimamente cioè, tanti miei amici hanno veramente un sacco di problemi all'idea solo di fidanzarsi, figuriamoci, sposarsi. Eh beh, perché oggi gli uomini però molto difficilmente si prendono l'impegno di tenersi accanto a una persona. È un impegno che costa. Ma caspita, anche l'ultima pubblicità del canone Rai, quella in cui c'è la Carlucci, se non sbaglio, che parla, eccetera, dice sì, noi siamo, c'è la famiglia lì dentro, no? E dicono sì, noi stiamo da 30 anni insieme. E il figlio chiude la pubblicità dicendo ah, io 30 anni non ci starò mai, che palle, che stress. Cioè, questo è un messaggio fondamentalmente negativo. Ammettolo come progetto, diciamo che un pochino fa venire qualche brividino, poi uno ci si trova dentro, ne sono passati 10, 20, non ci pensa più, dice ma è andata. Vabbè, grazie Angelo, arrivederci. Sansonna, noi abbiamo accennato prima un film che non abbiamo fatto sentire, però sì, anche Libero va anche bene. Ritorniamo all'idea, qual era? L'idea è di un padre che proietta la propria esistenza, le proprie frustrazioni, le proprie ansie sul figlio, e anche Libero va bene è da manuale. È terribile quando i genitori pensano che i figli possono essere l'esito perfetto di tutte le loro aspirazioni, quindi sono dei piccoli giornalisti, dei piccoli medici, dei piccoli ruffiani, ogni cosa che è stato il padre dovrebbe essere il figlio, che non è mai possibile, anzi si libera il figlio dell'impegno di essere quello che è stato il genitore. Cosa mi è venuta la curiosità? Ma che ruolo ti piace? Centrocampo. A me mi piace Libero. Libero è un bel ruolo. Anche Libero vabbè. Però facciamo l'anno prossimo. Tanto quest'anno il nuoto è già pagato. Sansonna, cosa stanno dicendo su questo allora, padre? Questo è il dialogo finale del film. Allora, in questo film, sintetizzo brevemente, Kim Rossi Stewart è stato abbandonato dalla moglie, che era Barbara Bobulova, e che ha destabilizzato questa famiglia. Quindi Kim Rossi Stewart è rimasto solo con il suo mestiere precario di operatore cinematografico insieme al figlio piccolo e a una figlia un po' più grande, no? E su questo figlio piccolo proietta tutte le sue ansie e lo vorrebbe campione di nuoto. E c'è una scena clamorosa in cui il figlio che sta vincendo questa gara con padre iperteso con cronometro alla mano che lo vede vincere, il figlio si dimette dal suo ruolo di figlio modello e si appoggia alla corsia e lascia sfilare tutti quanti, cioè esce da questa, si ribella alla proiezione, si di essere frutto di un disegno paterno, sì, dice. Alla plasmazione del padre, si ribella, si sottrae e il padre lo guarderà con un odio teso che si scioglierà in questo finale in cui il figlio vuole giocare a pallone, vuole fare qualcosa di suo, però è dolcissima, infatti è fuori dai cliché il dialogo in cui lui accetta comunque che il padre quantomeno gli proponga il ruolo. Sì, vuoi giocare a calcio come vuoi tu, però io ti suggerisco il ruolo Libero, che è questo ruolo di difensore, e il figlio acconsente, dice vabbè mi fai giocare a calcio, però vabbè anche Libero va bene come vuoi tu. È molto, trovano un giusto compromesso fra la lecita e accettabile desiderio del figlio di essere autonomo al genitore, che però si sa questo colpisce profondamente, è una ferita profonda al genitore quando ci si accorge che un figlio verso i 14 anni circa comincia a essere un'altra persona staccata da te, sì ti somiglia ma senti che la sua carne se la tocchi non è più la tua, gli dà fastidio, un figlio quando cresce comincia a essere infastidito dalle carezze dei genitori, non lo può più abbracciare come prima e ti rendi conto che è un'altra persona. Questo è il momento più terrificante in cui uno deve decidere con grande coraggio di dare un taglio netto, deve prendere la sua strada, vuol dire che è ora che se ne va per la sua strada. Certo, dei cascami rimangono, il desiderio di lasciare qualcosa di sé nel figlio, perché i figli sono per i genitori la vera trappola per la morte. Noi intrappoliamo la morte lasciando parte noi stessi e i nostri figli, come hanno fatto con noi i nostri genitori, ma ce lo dimentichiamo, la nostra salvezza è dimenticarcelo. Daniele. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Io sono sposato da 20 anni. Bravo. Bravo. Mi sono sposato in età, diciamo, di quasi di incoscienza. Forse è la cosa migliore. Anche beh, lo facciamo tutti in stato di profonda incoscienza, perché razionalmente, diciamo la verità, sì, no, sposarsi a 23 anni, diciamo, c'è poco da avere coscienza. Sono profondamente felice, nel senso che della scelta che ho fatto, però la mia lamentela è che sono sposato da 20 anni e sento politici quant'altro che avrebbero voluto aiutare la famiglia. Ormai c'ho un figlio di 20 anni, sinceramente tutto questo aiuto da parte della società a crescere dei ragazzi non c'è stato. Questo quindi era, lei dico che la famiglia è una grande istituzione, secondo me è il fondamento dell'Italia. Beh, adesso però l'abbiamo nei comportamenti. Non ci riempiamo di parole, che in realtà che vuol dire il fondamento d'Italia, famiglia? Tutto e niente. Quale famiglia? Diamo un modello di famiglia comunemente condiviso da tutti, comunemente realizzato da tutti. Quante sono le famiglie che in realtà possono essere considerate tali? O esistono tanti modelli di famiglia? Non esiste un modello di famiglia. Esiste un'idea, un ideale, esiste un'attenzione, esiste un impegno, però non mi fermerei a dire, sennò ci nascondiamo dietro le formule, nessuno deve essere fiero. No, Pilazzo, le dico anche il motivo, secondo me attualmente tiene il collante dell'Italia anche dal punto di vista economico è la famiglia, perché in altre situazioni i giovani, perché hanno ragione i ventenni, trentenni ad avere paura a fare una famiglia, perché io ho diversi amici professionisti che dicono sposarsi non conviene, significa mettere insieme due redditi, significa pagare molte più tasse. No, al contrario, sposarsi conviene tantissimo. E da questo punto di vista sposarsi conviene veramente. Due persone possono pagare un mutuo per una casa, due persone possono avere un'assistenza, ma scherza, sposarsi è il più grande affare dal punto di vista della sopravvivenza. Le garantire, io ho una famiglia, fare un ISEE con due redditi ha un altro valore rispetto a fare un ISEE con un solo reddito. Una mamma con un figlio sposato, con un figlio non sposato, riesce a inserire un figlio in un asilo nido. Sì, vabbè. È vero, ha più punteggio. Lei parla di famiglia e questi sono i problemi. Ha più punteggio, della famiglia. Sì, signore, ma ha più punteggio, però dopo sto figlio se deve mantenere da sola, torna a casa, non c'è nessuno. È diversa, sì, è chiaro, è avvantaggiata nel punteggio per mettere un figlio in asilo nido, ma se si lavora due in famiglia ci si può anche permettere di pagarlo un asilo. Melog 2.0. Guarda quanto è lento quel ragazzo. E già si è svegliato te da stamattina che sta frigge. Ho fatto una scolatura di fritto, c'avevo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine, il cocombero dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Se muovemo mai, una volta che si muovemo si poteva andare Anzio. Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%. E che sarebbe questa riduzione del 50%? Già te l'ho detto, il commendator Villetti ha preso un accordo con la direzione generale dello stabilimento balneare. Sì, tu mo mi incanti. Di' piuttosto che ci vuoi andare perché c'è qualcuno che ti interessa. Stiamo parlando di famiglia italiana, dei suoi riflessi, della sua eco nel cinema italiano di genere. Non poteva mancare la risposta all'ascoltatore di prima che dice che la famiglia non è un'impresa economica. Io sono convinto che in realtà un bene rifugio è proprio metter su famiglia, se uno vuole perlomeno avere possibilità di condividere le mestizie economiche delle magrezze contemporanee. Beh, Aldo Fabrizi, capo famiglia della famiglia Passaguai, sembra pensarla simile. Giuseppe Sansonna, la famiglia Passaguai è stato un momento favoloso dell'Italia della Rinascita. Sì, con questa donna solida incarnata da Veninchi, col figlio delle Piane che prendeva schiaffi, c'è cioè questo reintrodurre lo slapstick da parte di Aldo Fabrizi, che era anche il demiurgo di tutto. E ci riporta a questa dimensione anni 50 della famiglia, appunto, che fa i conti con questi stratagemmi anche per andare avanti, e questa sorta di clima di gite ad Anzio, di gite a Fiumicino, insomma un'area molto paesana, molto, molto antica, molto divertente ancora oggi, insomma. Al momento delle scampagnate di fagottari, sì. L'Italia lambiva la prima idea che potesse esistere il periodo delle vacanze, la villeggiatura, il periodo del lavoro, ma naturalmente in un momento di crescita ma anche di difficoltà queste due zone erano piuttosto sfumate. Si andava a passare un giorno ad Ostia con i panini, con gli fagotti, arrangiandosi in questa promiscuità generale. Si dà però il pulsare di queste famiglie che nascevano ancora sulla speranza e sull'obiettivo di felicità, sembrava vicinissimo. Oggi invece sulla mestizia, sulla rimessa in discussione di ogni valore, di ogni legame, su padri che fuggono, su madri che devono per forza, giustamente, rivendicare la propria autonomia con i farlocchi dei mariti e dei figli accanto. Sì, non c'erano dubbi sui ruoli, cioè il padre era padre in tutto e la madre appunto era quella che era l'angelo del focolare, e anche i modelli che venivano proposti erano questi, se vogliamo, anche abbastanza... Però teneva strettamente per le palle il padre, nonostante che fosse lui il capofamiglia, perché ne era succubo completamente. Ed erano anche genitori, se vogliamo, che avevano una totale assenza di erotismo, cioè erano proprio genitori, se vogliamo. Sì, avevano figliato, avevano fatto una volta e basta, fine. Avevano assolto il loro termine, erano genitori, appunto, diventavano quello e basta. Andiamo avanti con un altro esempio, visto che vogliamo fare una carrellata retrospettiva. Sì. Tema: descrivete la figura di vostro padre, il suo lavoro, le sue abitudini, le sue aspirazioni. Svolgimento. Mio padre non è proprio quello che si dice un bell'uomo. Come sarebbe? Mi ricordo che una volta, che lui litigò in autobus, uno lo chiamò Scuccione. Dico, ma... Il lavoro di mio padre è stare molto fuori di casa e poi ritornare con stoppe, orologi, ombrelli e pure copertoni. Mio padre, prima di uscire dal portone, guarda sempre chi c'è per strada. E ogni tanto telefona che vuole la biancheria. La domenica... Un momento! Papà, che fai? Lo strappo. Non mi piace. I temi bisogna scriverli di fantasia, capisci? Inventare delle cose sentimentali, graziose, carine. Non scrivere le cose che succedono alla vita. Che c'entra la vita? Ma maestro ci ha detto che dobbiamo essere sinceri. Vabbè, sinceri di animo. Questo conta. Non scrivere se stupidaggi. Comunque se lo devi scrivere vuol dire che te l'ho detto io. Ecco, qui Giuseppe siamo nel clima di io non ho paura, ma in un ambiente meno drammatico. Esatto, il re è nudo, disvelato dal figlio delle piane, che con questo nasone, già dodicenne, aveva un viso picassiano, e disvela quanto in questo tema. Il tema scritto a scuola è un tema ricorrente, appunto Veronesi lo usa in questo ultimo film, e ci sarà in Amici miei, e c'è in Guardie e ladri, e disvela appunto la reale attività con piena sincerità, come gli è imposto dal padre stesso, che vuole educarlo alla sincerità e ai valori, però poi davanti a questo disvelamento... Diciamo che è il primo esempio apparentemente candido e non insidioso di intercettazione ambientale, quando la maestra dice ai bambini cosa fa la vostra, descrivi la vostra famiglia, esatto. La prima volta che un occhio strano entra in seno alla famiglia. Infatti i miei genitori si imbufalivano come bestie di fronte a questi temi. I figli trasformati in cimici all'interno del desco familiare, che poi riportano in classe la vera condizione familiare. E qui Totò è straordinario, commovente secondo me nel parlare della fantasia. Tutto va reinventato, anche la visione del padre va reinventata, va capito, bisogna essere concilianti. Gina, portaglielo un po' anche al nonno, dai. Ma ha già mangiato. E badimi ba, il babbo del mio babbo, lo chiamavano Carnazza. Le porta 107 anni e ancora, oh. Non ne posso più. E allora? Buono sto Sangiovese. È buono, eh? Senti un po', carino, dove sei stato ieri sera? Io? Mm. Al cinema, babbo. Al Fulgor. E cosa faceva? C'erano gli indiani, ci tiravano le frecce. Quante le tiravano, babbo? Ne avranno ammazzate. Ma cosa facevi? Cosa è successo? Che meglio per te? Niente soldi. E vieni a fare il manovale sotto di me. Però mi paghi, babbo. Ti pago a martellate sulla faccia. Te mi devi dire di chi è figlio questo pezzo di merda. Io alla sua età lavoravo già da 3 anni. Sì, lo so, babbo. Ecco, questa è una visione più sanguigna, più legata ad altri tipi di iniziazione, che naturalmente mettono a repentaglio anche la centralità virile del padre in famiglia. È qualcosa di epico, qualcosa che affonda le radici nel profondo del nostro inconscio. E cosa accade in Amarcord? Questo è Amarcord di Fellini, questa Rimini onirica che fa parte dei ricordi dell'infanzia del regista. E qui c'è una famiglia in cui in realtà c'è il nonno a cui è affidato l'erotismo, quello di cui parlavamo, assente in Aveninchi, in Fabrizio, perché il nonno mima questo gesto col pugno dell'atto sessuale, quindi lui, essendo libero per età, può lanciare questi strali sull'erotismo, esporre, introdurre l'erotismo in casa, mentre i genitori sono molto più repressivi, sono incarnati in queste figure anerotiche di genitori. Questo è... Ecco, sentiamo Maria Cristina. Buongiorno Maria Cristina. Buongiorno, io devo dire, mi piace moltissimo il tema della trasmissione stamattina, ma mi mette anche un poco in confusione questa famiglia che non so più definire, questa famiglia che a volte è una gabbia, a volte è una cosa bellissima, a volte può essere un simbolo di libertà. Io ho un'esperienza, io mi sono separata quando ero molto giovane con 2 bambini, non ho voluto più saperne del padre di questi bambini, che non si è fatto nemmeno più vedere. Era un infame, era. Come? Era un infame. No, assolutamente, ha fatto delle altre scelte. Io mi sono messa con un altro, che è il mio attuale compagno, ho avuto altri figli, ho cercato di considerare la famiglia un gruppo, a volte è stato molto bello, a volte è stata una gabbia. Oggi ho 4 figli, 5 nipoti e a volte me la sento ancora come una gabbia, dove questi genitori, per esempio, nella famiglia, sono visti dai figli, per esempio, come dicevate prima, sono privi di, devono essere privi di erotismo, non possono avere una vita sessuale. Ma chi, i genitori o i figli, scusi? I genitori o i figli? Chiaro, ma guardi, ma lei non è stata figlia, non si ricorda. Provi a pensare lei come avrebbe immaginato suo padre o sua madre avvinti in amorosi abbracci anche con altre persone. Ma non lo so, perché io vengo da una famiglia di genitori separati, stranieri, con una cosa diversa. Fa brividire, quindi è una cosa diversa. Oggi ho, secondo me, non bisogna nemmeno, però scusi, assatanare i figli con le nostre proprie vicende carnali. No. Noi abbiamo diritto a vivere la nostra carne felicemente fino all'ultimo istante, ma lasciamo in pace i figli, che si vivano la loro. Perché, ma li lascia, cioè, ma loro devono lasciare in pace noi. Ma guardi, quindi... non c'è maniera migliore di farsi lasciare in pace i figli che dirglielo chiaramente, non mi rompere le scatole, figlio ma mio. Ma infatti, questo, ma diventa un problema poi. Ma lo diciamo, mi ritrovo oggi con una figlia che ha fatto una scelta di stare da sola con una bambina e questa bambina praticamente è diventata la mia quinta figlia. Vabbè, lei se la va a cercare, scusi, lei cerca... Come? Cerca spazi di promiscuità libera e poi si accolla figli, no, nipoti. È chiaro? No, non cerco spazi di promiscuità libera. Cerco dei diritti di, come persone, e ho una contraddizione perché sono uno di quelli che non accetta le famiglie allargate, che mi sembrano una forzatura. No, mi faccia capire bene, non ho ben capito. Lei cosa vorrebbe? Cosa avrebbe non voluto? Lo so. Io sono abbastanza contenta di quello che c'è. Non le bastava un marito, un secondo marito? Voleva... Ce l'ho! Voleva spaziare con la fantasia oltre i limiti del marito. Spaziamo con la fantasia. Ah, ecco, sono problemi. Beh, poteva farlo, chi gliel'ha impedito? Scusi, il controllo non dei tanti. L'hanno... No, assolutamente. L'ha fatto. No, questo l'ha fatto, simbolo no. di famiglia che l'ha fatto, spesso... no. L'ha fatto, che no. Cosa ha fatto? L'ha spaziato oltre con la fantasia, con la realtà. Certo, beh, basta. Ma allora cosa le manca? No, cioè non se n'è negata nulla dalla vita, scusi, no, sono felice. Credo di no, tutto so- e allora tutto sia felice, infatti. E allora non ci faccia sentire in colpa verso di lei. Tanti auguri, Carla. Sì, buongiorno Nicoletti. Ha visto, ha confessato la sua collega fino all'ultimo, messa alle strette, ha confessato che oltre due mariti si è anche lasciata andare, ma io sono felice quando io questa proprio accade. Su questo volevo intervenire, su condizionamenti. Nel senso che io sono una mediatrice familiare, lei ha chiesto prima di citare qualche film in cui ci riconosciamo, quindi io potrei citare degli illustri film italiani. Mediatrice familiare, spieghi esattamente qual è la sua professione. E la mia professione è quella di riuscire a far entrare in contatto una coppia per molto semplicemente, pragmaticamente, stilare un accordo anche nel momento, soprattutto nel momento del divorzio, che... Cioè, diciamo, fa in modo che sia meno traumatico possibile per i figli, perché... Esatto, sì, soprattutto per cerca i figli. Cerca di metterli, di salvare il salvabile, ecco, questo è il suo lavoro. Sì, sì, sì, in maniera molto pratica, rimane in senso. È un lavoro triste? Allora, il film... No, dico, il lavoro triste è il suo? No, no, no, assolutamente, anche perché... bisogna rispettare le scelte di ognuno, non andare lì con... Ma il suo lavoro, diciamo, da ragioniere, non entra in merito l'aspetto... Di mettere su la famiglia, ecco, non c'è questo buonismo... No, mai. Questa non è questa l'intenzione. E, rispetto al film, ecco, che volevo citare, è un film molto banale che è Il mio grosso grasso matrimonio greco. E le spiego perché. Perché molto semplicemente fa vedere una famiglia con dei forti condizionamenti. Io poi tra l'altro sono napoletana, quindi la sento appieno questa cosa. Però rispetto alla famiglia un poco molto più serena, che non litiga mai, che le descriveva prima, una famiglia dove i condizionamenti... Ma le sue mediazioni quanto tempo durano, signora? Lei quanto tempo ha a disposizione per mettere d'accordo le persone sul da farsi dopo sposate? Perché la sento un po' diluita nell'esporre, lo sa, per questo dico, io immagino che lei va lì con il foglietto, allora forza, chi ha dato, chi ha avuto, avuto, arrivederci. O diciamo ha molto tempo a disposizione, perché io non posso più farla parlare dovendola segare, perché mi stanno incombendo le informazioni del traffico e a me non posso sentire esattamente qual è la profonda radice del senso di questo grosso grasso matrimonio greco. Melog 2.0. L'altra sera, no, per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no? Lo sento, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori? Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, che le pezza al culo, ai se poveri a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così! Giuseppe Sansonna, questa è una favoloso passaggio di Un sacco bello di Verdone, in cui il figlio, figlio di fiori, alternativo, porta la ragazza squinternata a casa, il macellaio alza due pugni dicendo: io sono comunista, così, con due mani. Sì, c'è lo scontro fra i figli dell'amore eterno di Verdone, Verdone sta in questa setta, e il materialismo trucido e assai poco dialettico di Mario Brega, che appunto viene un comunista della resistenza che si trova di fronte, però con sacri valori della famiglia, e trova questo figlio biondo con questa parlata sbiascicata che però è abbastanza datata come figura. Oggi la figura più attuale sarebbe i genitori, figli, esito dell'incontro fra Verdone e la ragazzetta, con una mitologia barricadera che non ha più motivo di applicazione, che portano i panini caldi, cornetti ai figli che stanno occupando il liceo romano, e tutti fuori i genitori con: bravi ragazzi, bravi figli, stanno lì, non sanno manco perché. Mi sembra strano fare un'occupazione con i professori d'accordo, con i genitori d'accordo, con i giornali d'accordo, stanno lì, occupano, perché è come una, forse una festa del santo patrono che ogni anno bisogna ricordarsi, perché non ci sono più i ruoli, non sei più contro niente, tutto, ripartiamo sempre, tutto omologato, quindi anche il gioco delle parti, della contestazione è svanito in un tutto uguale, cambia solo un po' i colori. Che era quello che si riteneva 20 anni fa fosse il meccanismo disgregatore della famiglia, oggi è diventato il collante della famiglia contemporanea, quello che una volta era lo spirito di messa in discussione di tutti i valori, che si diceva disgregava la famiglia, oggi tiene bene o male insieme le famiglie, che ancora possono chiamarsi tali. Ho traslocato in casa ad un amico del babbo. Che è? Il diario che la signora maestra ci fa tenere alla fine di ogni giornata. Brava, intelligente codesta maestrina. Lui dice di essere conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese. Tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni e un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di due uova che abbiamo mangiato in tre. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire, che mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello un aggeggio di tre locali. Loculi. Di tre loculi, dove mi toccherà dormire assieme alla moglie, una donnetta secca e rifinita come il suo nome, Alice, e la figlia Mela, che per fortuna non dà noia. Io dico che codesto conte o è un gran bugiardo o si è ridotto proprio come un disperato. 10 lode. Giuseppe Sansone, questa meravigliosa e terrificante lettura del conte Mascetti, fatta da il suo, cos'è, il suo figlio del Perozzi, di Filippo Re. Il regista è lo stesso di Guardie là dei Monicelli, che riprende il tema del ragazzino come chiave per raccontare l'adulto. Questo Mascetti, che è questo conte così cialtronesco, così decadente, raccontato da questo bambino adulto che non è, davanti a suo padre e ai suoi compagnoni, ai suoi compari, che pur attempati non rinuncia a un'adolescenza zingaresca, affonda il suo bisturi con queste parole che sono gelide, suonano come lame, no? Cioè, nel descrivere questa situazione e dimostrare ancora una volta che il re è nudo, che è una situazione patetica. Oggi è molto più difficile vedere nei sistemi, nei circuiti molto più attivi e molto più costanti di referenza dei figli, quella che è l'idea dei genitori. Oggi i ragazzi che si incontrano nei social network di tutto parlano, meno che dei genitori, perché molte volte li incrociano, le madri alla ricerca di rapine amorose, i padri nella stessa attività. Papà, io per te ho fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato nella vita. Che hai fatto per me? Io ho pianto. Hai pianto? Hai visto chi sono io? La moglie di un mercante di morte. E noi figli del cobra. Papà, non trovo parole per esprimermi, ne trovo una sola. Vergogna, vero mamma? Sì, caro. Posso anche cambiare mestiere, sì. Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche, che è un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400.000 lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce, tutti i cazzi che ve se fregano! È un lecito sfogo di Alberto Sordi, che è lo stesso sfogo che oggi potremmo sentire in tante famiglie, con genitori compromessi, con i figli che rinfacciano magari stai sempre fuori, lavori sempre, oppure ti hanno beccato con il sorcio in bocca, caro papà. Il padre gli dice: sì, ma il prezzo della tua vita, del tuo benessere, del tuo essere spensierato, ti rendi conto che era anche questo? È come se la famiglia fosse una bolla protetta rispetto alla società, e quindi i componenti della famiglia non tenessero conto di da dove arriva poi le chiavi del benessere, a cui poi effettivamente non rinunciano, come non rinunciano in questo film, perché poi lo svegliano subito al padre per farlo tornare a fare mercante d'armi, cioè non hanno nessuna, non rinunciano affatto, pur davanti alla consapevolezza dell'orrore non rinunceranno. È molto attuale in realtà questo film, perché oggi uno dei problemi reali che si vive nelle famiglie è che la famiglia è riuscire a far capire ai figli, e si spera che le mogli, questo l'abbiamo già capito, se no non sarebbero accanto a noi, che in realtà non è proprio tutto scontato quello che hanno, non sono scontate le vacanze, non sono scontate le palestre, non sono scontate le PlayStation, i gite fuori porta, le maestre d'inglese, tutte le cose che danno per scontato e tutti gli altri ce le hanno, comunque costano qualche piccolo prezzo, che a volte è la gioia dei genitori quando il lavoro coincide in un'attività di soddisfazione, molte altre volte è anche il frutto di mille compromessi. Sentiamo Fausto. Fausto, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Modena. Io proprio in questo contesto mi sento un po' come un titolare d'impresa, no? Dove ho mia moglie che è una sorta di cotitolare, i miei quattro figli come dipendenti. Oddio, anche soci forse in parte. Ma purtroppo no, ecco, la società si è chiusa così, ma va bene comunque. Ecco, volevo dire che un po' sentivo nelle sue parole in un intervento precedente come l'idea della famiglia la portava un pochino sfumata, no? Cioè, non proprio come un fatto concreto, mentre io in realtà credo proprio che la famiglia sia uno dei fondamenti, non voglio dire il fondamento assoluto, però uno dei fondamenti della nostra società. Sì, già l'ha detto un suo collega, io mi piace tenerla sfumata, perché mi sembra importante non dare mai... dare dei limiti di certezza all'immagine della propria famiglia significa veramente considerarla come un recinto invalicabile, invece è un recinto con pareti elastiche che permettono entrate e uscite, ma per il bene e per la piacevolezza degli altri. Sansone, cioè, chiudiamo. Dare più importanza alle persone che all'istituzione famiglia, alle persone che la compongono, cioè è più interessante. Ecco, la famiglia è quella cosa che ti senti accanto con il mondo intorno. Il mondo intorno è fatto di persone buone o non buone, ma comunque ostili. La famiglia si spera che non sia ostile, ma a volte lo diventa. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ringrazio il grande Giuseppe Sansonna, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.